Il 25% dei conti con il minor numero di operazioni annue costa in media 70 euro contro i 218 del 25% con il maggior numero di operazioni. Sui risultati di questa indagine, oggi ancora preliminari, torneremo in futuro. Possibile però avanzare qualche prima osservazione. La clientela si è in parte spostata verso i conti a pacchetto, meno costosi per la maggior parte dei profili di quelli a consumo, dove gli oneri dipendono dal numero di operazioni effettuate. Tuttavia, la tipologia scelta dalla clientela non è sempre la più conveniente in relazione alle caratteristiche del conto. Non mancano esempi di conti a consumo caratterizzati da alta operatività e quindi da costi molto elevati. Le banche devono continuare a migliorare l'informazione fornita alla clientela. Trasparenza delle condizioni, concorrenza fra banche, attenzione per la clientela, consapevolezza di quest'ultima contribuiscono alla riduzione dei costi, possono e devono stimolare ulteriori progressi.